9 in punto. Buona giornata, cari ascoltatori, da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Oggi torniamo sul sisma, come già vi hanno ben raccontato i giornali radio, a 9 mesi dal terremoto che ha colpito principalmente l'Emilia, naturalmente. Torniamo sul tema con un occhio particolare agli imprenditori, ma non solo a loro, naturalmente. Aspetto i vostri interventi all'800 24 00 24 oppure con l'hashtag su Twitter 9 in punto. Ci scrive Barbara: quello che sta succedendo qui nel cratere sismico è la vergogna italiana. Ci chiami, così ci racconta un po' meglio. Che cosa succede e da cosa vogliamo partire questa mattina? Vogliamo partire dalle imprese, vogliamo partire dal fatto che le domande per accedere ai contributi, agli aiuti che sono stati destinati dal governo sono complicatissime, cioè c'è un problema di burocrazia per cui queste domande di fatto non vengono presentate. Saluto Barbara Bulgarelli, direttore della CNA di Carpi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Saluto anche Giancarlo Muzzarelli, assessore alle attività produttive dell'Emilia Romagna, buongiorno. Buongiorno a voi. Inizierei da lei, Bulgarelli. Quante domande sono state presentate? Ma l'informazione che abbiamo noi come CNA è che in regione ne siano state presentate veramente molto poche relativamente ai capannoni, alla ristrutturazione degli edifici produttivi. 3, 4, 5, adesso il conto esatto dovrebbe aggirarsi sulle poche unità. E ce ne sono alcune che dovremmo anche noi presentare a breve, ma sono d'accordo con la sua premessa sul fatto che la domanda è una domanda piuttosto complicata. E ci siamo, noi come CNA ci siamo adoperati da subito per essere al fianco delle nostre imprese, tanto che fino ad oggi noi siamo stati contattati da circa 420 imprese per capire innanzitutto se era possibile, se potevano avere titolo ad accedere al contributo, e qui si è aperto un fronte di incertezze e di dubbi che abbiamo in questi mesi dipanato con la Regione. Probabilmente questo è stato un primo momento di difficoltà, cioè il capire se le imprese potevano avere titolo o no ad accedere al contributo, perché a fronte di un'ordinanza, dell'ordinanza 57 e delle successive linee guida che hanno rappresentato diciamo così una cornice abbastanza definita, però effettivamente ogni caso è diventato un caso a sé, per cui c'era la necessità di verificare in modo molto puntuale tutti i vari aspetti che potevano interessare la domanda e capire l'effettiva possibilità di poter accedere al contributo. Questa è stata, diciamo così, una fase piuttosto lunga, ma anche articolata e anche complicata. Ecco. Chiarissima, Bulgarelli. Questa è la premessa, poi avremo modo di tornarci, naturalmente. Scrive, tra l'altro, leggo da un pezzo della collega Ilaria Visentini del Sole 24 Ore, quello che scrivono, quello che hanno detto gli esperti fiscali di Unindustria Ferrara. Dice: l'ultimo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sulla modalità di rimborso del finanziamento agevolato per la ricostruzione, insomma, quei 6 miliardi dei quali stiamo parlando, aperte virgolette, è letteralmente illeggibile se non fatto apposta per risultare incomprensibile. Andiamo alla fonte, a chi di fatto poi gestisce questo denaro pubblico che deve arrivare per la ricostruzione, appunto a Giancarlo Muzzarelli, assessore alle attività produttive della Regione Emilia-Romagna. Voglio capire anche da lei, dalla fonte, insomma, ci diceva Bulgarelli, sono arrivate poche unità, ci conferma questo dato e ci conferma la complicazione? Tanto buongiorno. Vede, il problema è il dato, allora, per le imprese sono 7, per le case e le imprese le domande sono oltre 1200, 103 con già la cambiale messa, di queste noi abbiamo già anche all'interno un pacchetto di commercianti artigiani con sede negli immobili civili. E quindi la procedura è una procedura possibile, ma è chiaro che noi paghiamo le brutte figure del passato e un'assenza della legge sulle calamità, come i radioascoltatori sanno, abbiamo dovuto sudare sette camicie per avere i provvedimenti per la ricostruzione e le regole nazionali, sette provvedimenti. In più abbiamo anche scelto con il governo di fare verificare tutte le nostre procedure, sia dell'Unione Europea, dalla Corte dei Conti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per fare un'operazione prima per evitare problemi dopo. In più una procedura trasparente che assicuri totale legalità e responsabilità, perché le perizie giurate, il percorso previsto, che ovviamente crea più problemi rispetto al passato, ma crea anche certezze del diritto. E vorrei anche fare un plauso agli imprenditori, perché molti sono assicurati, più di quelli che avevamo ipotizzato all'inizio, e con la nostra collaborazione e fiducia hanno già costruito, sono vivi, sono ripartiti. E vorrei anche evidenziare questa parte positiva, perché io credo che al di là delle questioni del percorso che stiamo cercando di portare a compimento, oggi noi abbiamo risorse, 6 miliardi per la ricostruzione delle case e delle imprese, e come ho detto noi abbiamo oltre 1200 domande per la ricostruzione delle case e delle imprese all'interno degli immobili civili, e abbiamo ad oggi 7 domande per le imprese, perché per le imprese noi paghiamo i danni per i capannoni, per i macchinari, per gli impianti e per le scorte, per cui ovviamente occorrono le perizie, occorrono le verifiche dei danni, i progetti, e soprattutto per macchinari, impianti e scorte abbiamo bisogno di una comparazione delle macchinari precedenti, e vogliamo far ripartire le imprese con macchinari moderni e che siano compatibili con le norme europee sulla concorrenza. Quindi è un percorso molto complicato, siamo in stretta collaborazione con le associazioni artigianali e imprenditoriali, perché vogliamo arrivare a far presentare le domande computerizzate con le condizioni di certezza, e soprattutto il nostro obiettivo che abbiamo già posto al governo è per le case arrivare al 100%, ma il nostro obiettivo è anche quello per le imprese. Una domanda, Muzzarelli, perché anche su questi 6 miliardi, no, sono circolate tante cose, anche da noi giornalisti, insomma, quel che si è visto in giro, e non solo, anche dalle fonti poi che si raccolgono. Ma questi 6 miliardi ci sono oppure no? Perché questo non è che si è capito benissimo. Sono stati effettivamente stanziati oppure no? No, i soldi ci sono. I soldi sono già depositati alla Cassa Depositi e Prestiti, il 10 di ogni mese le banche pagano gli stati d'avanzamento che sono presentati a noi, alle imprese e ai comuni, dalle famiglie. Quindi c'è la certezza che i 6 miliardi ci sono, come sono disponibili le risorse di altri 6 miliardi per il prestito per le tasse. Quindi noi abbiamo già attivato un primo pacchetto prestito per anticipare il pagamento delle tasse, quindi il governo ha fatto questo primo provvedimento, 3.960 imprese hanno avuto accesso a quel percorso per 750 milioni di anticipazione, in sostanza era quel famoso marchingegno per anticipare, lo Stato anticipava all'imprenditore il pagamento delle tasse per far pagare le tasse, quindi è un giro vizioso per conti e contabilità nazionali. Quindi noi abbiamo fatto quel percorso di verifica, e oggi credo che l'articolo che lei citava era legato a quel percorso che deve essere fatto anche per le imprese che hanno danni gravi economici, che ancora non si è avviato, e quindi il governo deve avviarlo, per dare una mano anche a quelle imprese, visto che abbiamo ottenuto anche quel risultato. Dobbiamo lavorare perché il governo lo faccia rapidamente. Mentre i 6 miliardi per la ricostruzione, mattoni, capannoni, macchinari, impianti, scorte, per capirci, sì, ci sono, ci sono, quindi non ci sono dubbi su questo punto, e addirittura noi abbiamo già verificato quelle famose 103 domande delle case, delle imprese artigiane e commercianti che sono negli immobili civili, e a presentazione di stato di avanzamento il 10 di ogni mese le banche liquidino direttamente alla ditta che ha fatto i lavori. Se l'imprenditore ha già realizzato tutto, paghiamo direttamente l'imprenditore. Quindi è anche una procedura tracciabile, legale e molto chiara, perché abbiamo bisogno anche di combattere la grande illegalità che rischiamo di avere presente, e credo che ci sono e bisogna andarli a prendere. Quindi la sollecitazione che noi facciamo è anche quella, in stretta collaborazione con le associazioni economiche e con gli imprenditori. Noi abbiamo aperto un tavolo, oggi per esempio i nostri funzionari sono a Novi a incontrare gli ordini professionali, a incontrare le imprese, perché vogliamo stare sul territorio insieme agli imprenditori, insieme ai professionisti, per far costruire subito queste domande, farle presentare, perché noi vogliamo fare arrivare le risorse alle imprese. Chiarissimo. Alessio ci chiama da Pistoia, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Allora, io ho due negozi nelle zone terremotate. Devo dire, uno è stato chiuso per diversi mesi. Allora, c'è una leggenda, neanche tanto leggenda, me l'hanno raccontata. Praticamente sono stati sequestrati due sismografi amatoriali, perché la scossa sarebbe stata del 7.2, mentre invece ufficialmente è stata registrata del 5.9. Che differenza passa? Che sopra il 6.0 lo Stato sarebbe obbligato a pagare le attività danneggiate, sotto il 6.0 lo Stato non è obbligato a pagare le attività danneggiate. Io non ho visto un euro, nessuno ha visto un euro, nemmeno i miei proprietari degli immobili, quelli che pago gli affitti, insomma. Quindi questo sarebbe grave se fosse così. Grazie Alessio, adesso faremo rispondere Maurizio, ci chiama da Biella, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Io mi chiedo una cosa, perché ho appena sentito appunto che c'è tanta burocrazia, dei moduli complicati per questi rimborsi. Ma perché, io ho fatto un sogno, perché non fanno la stessa cosa quando danno il finanziamento ai partiti? Mettete i soldi dei partiti alla cassa depositi, dategli a loro questo modulo, che si divertono, altro che rimborso mutandine, sub ed altro. Per me è un sogno questo, mi scusi, ma ho dovuto dire. Vabbè, io sinceramente non so quali siano le pratiche burocratiche per i rimborsi elettorali ai partiti, però insomma, conoscendo il paese probabilmente saranno complicate pure quelle. Muzzarelli, vogliamo rispondere a questo ascoltatore Alessio che ci parlava dei negozi? Allora, è vera questa storia o è una leggenda metropolitana? È una grande leggenda metropolitana che purtroppo con la modernità dei mezzi della modernità è passata. Non esiste il problema, noi paghiamo tutti i danni, purtroppo la scossa è stata drammatica e quindi non ci sono sismografi, non c'è altro, i sismografi hanno registrato tutto e noi paghiamo tutto, quindi è una leggenda metropolitana negativa che crea solo disinformazione e non aiuta le persone a trovare l'equilibrio necessario per credere nel proprio perfetto futuro. Quindi, mi scusi, abbiamo avuto anche la quota dei soldi dei partiti, perché noi stiamo ricevendo quote di risorse dei partiti che arriveranno a 160 milioni di euro, quindi anche da questo punto di vista c'è una risposta positiva. In più vorrei anche aggiungere che i commercianti che hanno ricostruito le piazze provvisorie con i moduli provvisori hanno ricevuto dalla regione fino a 15.000 euro per ogni modulo che è stato predisposto con bandi, con risorse dirette della regione, che sono attorno a 13-14 milioni di euro, e quindi hanno anche avuto ma credo che sia doveroso da parte nostra, vorrei specificarlo, è un aiuto che noi dobbiamo dare rapidamente per chi è stato colpito e per chi è comunque ripartito, e per questo stiamo lavorando per il bando per le risorse INEL, per dare una mano anche alle imprese non colpite, per mettere in sicurezza i capannoni, e stiamo lavorando proprio per superare le burocrazie. Stiamo attenti a confondere la burocrazia con le regole. Mm. Bulgarelli, Bulgarelli, no, la fermo Muzzarelli. Barbara Bulgarelli, lo ricordo, direttore della CNA di Carpi, che abbiamo lasciato un po' da parte negli ultimi minuti. È una questione di regole o una questione di burocrazia? Immagino che voi la leggiate in maniera diversa, suppongo. Intanto saluto l'assessore Muzzarelli, col quale abbiamo avuto modo, insomma, di incontrarci spesso su questo tema terribile per il nostro territorio. Diciamo che noi siamo assolutamente per il rispetto delle regole, e su questo convengo con l'assessore, perché è assolutamente fondamentale agire con grande trasparenza e nei confronti naturalmente delle imprese. Questo è un principio che noi condividiamo. Ecco, sul tema il rispetto delle regole non deve però automaticamente passare attraverso un eccesso di burocrazia. Questo è, credo, la scommessa sulla quale noi dobbiamo anche intervenire, nel senso che il fatto che ad esempio sull'ordinanza 57 siano state presentate poche domande, e sono anche d'accordo con l'assessore quando dice che si tratta di intervenire sui capannoni, sugli impianti, sulle scorte, quindi la complessità c'è tutta. Devo però anche dire che effettivamente la mole di documentazione, di certificazioni, le perizie giurate, cioè c'è una, come dire, un atteggiamento molto indagatore, ecco, in un qualche modo, nei confronti delle imprese. Io capisco che siano risorse pubbliche, e quando è un euro pubblico deve essere tracciabile, deve essere speso con grande trasparenza, siamo d'accordo. Bisogna però che le imprese siano messe nelle condizioni di poter presentare le domande, perché altrimenti va bene la democrazia, va bene la burocrazia, vanno bene le regole, però se poi non ripartono, perché effettivamente c'è questo problema, è chiaro che noi rischiamo di fermare per diverso tempo un territorio che peraltro ha voglia di riprendersi, ma deve essere messo nelle condizioni di poterlo fare. Ci chiede chiarissima Bulgarelli, ci chiede Paolo via Twitter, alla fine, perché insomma forse su questo non abbiamo fatto bene il punto, e le chiedo di essere molto breve, Muzzarelli, alla fine si può sapere quanti soldi sono stati erogati? Allora, rispetto a 12 miliardi di euro di danni in Emilia-Romagna, noi abbiamo già a disposizione 9 miliardi di euro e abbiamo già stanziato con le ordinanze, ho sentito una sua battuta sulle ordinanze, vorrei chiarire che le ordinanze sono l'unico strumento del commissario per dare risorse, e ogni ordinanza è o una regola o una risorsa, per cui noi con quelle ordinanze abbiamo superato un'emergenza facendo le scuole, creando i moduli provvisori, cercando di rispondere alle opere provvisionali, mettendo a posto le palestre, cercando di realizzare ancora pezzi di comunità dai municipi alle chiese. Quindi ogni ordinanza è un percorso. Sia chiaro, Muzzarelli, non, guardi che non era una battuta, dico semplicemente che poi quando uno si trova a confrontarsi chiaramente con il decreto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate, però l'ordinanza commissariale, deve mettere insieme tutto questo e cavarne fuori una domanda di aiuti. No, non è così complicato. No, e soprattutto perché c'è la disponibilità totale degli uffici regionali a incontrare ogni singolo imprenditore per dare una mano a ogni singolo cittadino, a ogni singolo imprenditore, quindi c'è la disponibilità totale nostra, e quindi noi riteniamo che i 6 miliardi disponibili per la ricostruzione di case e imprese debbono essere spesi, e quindi il nostro impegno è collaborare con le imprese e le famiglie per andare a prendere e venire a prendere queste risorse. Credo che le domande stiano dimostrando, anche quelle fatte col MUD, che ci sono tutte le condizioni per complicarle. Sappiamo bene che per le imprese le perizie e i progetti necessitano di tempo, perché lì le imprese erano distrutte, i capannoni sono crollati, bisogna ricostruire a partire dai calcoli antisismici per costruire in modo più sicuro, con macchinari migliori e nelle condizioni anche energetiche migliori rispetto al passato. Io visito almeno 6-7 imprese ogni settimana e vi assicuro che molte imprese sono ripartite con l'orgoglio di questo territorio e con la forza di imprese che hanno rifatto i capannoni con queste caratteristiche più sicure, antisismiche ed energetiche. Questa è la condizione per dare una mano al nostro sistema Italia, che da questo territorio vuole ripartire più forte di prima. 9 in punto. Beh, si parlava di burocrazia, no? Qua sotto mano una circolare dell'Agenzia delle Entrate, insomma, per darvi un'idea, nella premessa c'è scritto, si parla del, appunto, dei contributi che possono richiedere gli imprenditori. Il successivo comma 7 stabilisce che, fermo restando l'obbligo di versamento, eccetera, eccetera, i titolari di reddito d'impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi, di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012-74, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012 numero 122, ovvero all'articolo 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012. Capite che poi a un certo punto, quando uno ci va a mettere mano, magari ci mette mano il commercialista, però è chiaro che un minimo di complicazione c'è sempre. Sentiamo un po' Federico, che ci chiama dalla provincia di Modena. Buongiorno. Buongiorno, chiamo da Carpi. La mia domanda era proprio a conferma dell'incertezza della normativa. Io sia come privato che come legale sto seguendo una pratica volta a ottenere i contributi per ristrutturare un immobile. Il problema è che l'immobile è completamente in comproprietà, senza parti di proprietà esclusiva, e non si capisce, il comune di Carpi non risponde e gli addetti ai lavori non sanno precisamente cosa dirmi, con quale percentuale, diciamo così, chiamiamolo in assemblea, la comproprietà può deliberare la richiesta a volte ottenere i contributi. Se basta il 50 più 1, i due terzi, l'unanimità, non riusciamo a comprendere. Chiarissimo, chiarissima la domanda, o meglio, Federico. Sentiamo anche Marco, che ci chiama da Prato. Buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Io rappresento appunto l'Istituto Geofisico Toscano e noi gestiamo una rete sismica locale nella regione toscana, nella parte settentrionale. E desideravo intervenire un po' per sfatare appunto questo mito dell'aver nascosto registrazioni, eccetera, soprattutto anche dopo quello che è accaduto con la Commissione Grandi Rischi all'Aquila. Le registrazioni digitali sono disponibili. Sono disponibili per tutti e possono essere tranquillamente visionate, basta richiederle, appunto noi le abbiamo registrato il terremoto, purtroppo per fortuna il terremoto ha avuto una data e intensità che, come ha detto il signore che è intervenuto prima, non ha passato il 6.0, però è un purtroppo, appunto, per modo di dire, perché insomma è una grande fortuna. È stato certamente un terremoto anomalo, è vero che la normativa è ingarbugliata, per cui è difficile richiedere finanziamenti eccetera, ma è anche vero che costruire in modo corretto e sulla base dei dati che giornalmente dall'Istituto Nazionale di Geofisica alle reti più piccole come la nostra registrano è il modo migliore per difendersi dai terremoti. Questo dovremo impararlo sempre. Chiarissimo, Marco. Sentiamo anche Andrea, che ci chiama da Verona. Buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Io sono un professionista, un fiscalista e più volte ho avuto a che fare anche con i contributi qua nel nord-est, la richiesta di contributi di piccole e medie imprese, imprenditoria femminile o altro. Ecco, io solitamente però mi sono trovato di fronte a questo problema e poi faccio la domanda all'assessore, che nonostante le imprese piccole e medie facessero le domande su contributi anche a fondo perduto, sull'acquisto di macchinari o altro, ci troviamo sempre di fronte a una burocrazia assurda, non le dico fotocopie su fotocopie, quietanze sulle fatture pagate che poi non si capisce, chiedo il contributo a fondo perduto o altro, o il conto interessi per acquistare un macchinario, la regione mi chiede le fatture con la quietanza di pagamento, ma se non ho i soldi e chiedo il contributo, devo fare prima un prestito a una banca ai tassi che so, la banca mi fa quasi usurai, per acquistare quel macchinario, per dare le fatture con la quietanza sopra alla regione, che poi dopo anni mi dà il contributo. Un'esperienza recente, una piccola impresa ha ricevuto un contributo di 30.000 euro, quindi una stupidaggine, dal 2007 la domanda era stata fatta. E non le dico quante volte la regione, in questo caso Veneto, ha fatto problemi, ha richiesto documentazione. Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo Andrea, poi la cosa diventa più urgente naturalmente quando si parla di una situazione come quella del terremoto o dalle vostre parti, per esempio quella dell'alluvione, immagino. Però venga la domanda per l'assessore che voleva fare. In realtà come funziona, non come dice l'assessore, che sono belle parole, ma poi nella realtà sono le piccole imprese medie che riscontrano veramente la realtà. Allora io volevo chiedere una cosa, visto che ho sentito un comizio 2 minuti fa su una domanda che poi non è stata risposta, perché poi sono i numeri che contano. 7 imprese hanno fatto la domanda, vuol dire che le domande non sono sufficientemente chiare, poi le chiacchiere possono essere molte, bisogna farle in un certo modo, sono le solite cose che si sentono nei contributi. I professionisti purtroppo che hanno a che fare con questo, perché i cittadini non sono in grado di rispondere a di fare. Stringa Andrea, stringa. Ma vale questa, quanti soldi effettivamente ad oggi sono stati erogati, non messi a disposizione, erogati? Chiarissimo, chiarissimo. Muzzarelli, una risposta su questo, ce lo chiedono anche via Twitter, dicono ma insomma ci ha detto quanti soldi sono in gioco complessivamente, ma non quanti soldi sono stati effettivamente erogati. Allora, il 10 di ogni mese ho detto sono in erogazione, noi abbiamo domande per oltre 4 milioni per le imprese e abbiamo 1200 domande per le case e per gli imprenditori che sono negli immobili civili. Il 10 del mese prossimo saranno erogate oltre 300.000 euro e nell'arco del mese successivo saranno erogate oltre 4 milioni di euro. Perfetto. Quindi questi sono mi scusi Muzzarelli, questi sono i primi soldi che vengono erogati? Questi sono i primi soldi erogati, oltre a quelli già erogati per gli interventi diretti ai commercianti per le loro strutture provvisorie e per gli altri interventi che abbiamo previsto a sostegno infrastrutturale e di aiuto agli artigiani. Ma il punto chiave è: oggi ci sono tutte le condizioni perché regole, comportamenti e azioni sono operative. Io non è mia abitudine fare comizio, sono un uomo molto pratico e dico semplicemente che noi stiamo cercando di erogare, stiamo lavorando insieme alle associazioni di categoria per sviluppare la presentazione di queste domande tutte telematiche. Io non so esperienze di altre regioni, io dico che qui le ordinanze sono puntuali e se la procedura che è standardizzata ed è all'interno della procedura MUTE e della procedura Sfinge, noi abbiamo tutte le condizioni per erogare, quindi la collaborazione è totale, noi stiamo facendo tutti sul serio, gli imprenditori sanno bene come siamo fatti, andiamo a trovarli in azienda, lavoriamo insieme perché la ricostruzione in Emilia Romagna sarà in tempi brevi reale e operativa. Saluto Sandro Romagnoli, portavoce del comitato Sisma.12, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Che siete quelli un po' più duri da questo lato, soprattutto nei confronti del governo, siete stati tra quelli che hanno contestato Mario Monti nella sua visita dell'altro giorno, avete lanciato, siete voi esponenti del vostro comitato che hanno lanciato uova, no, contro il sindaco, no, Baldini o no? No. No, allora c'è stata una cattiva lettura da parte dei giornali. Avete cattiva stampa? In realtà non credo, cioè adesso non so, ma per quello che abbiamo potuto vedere come rassegna stampa, i giornali hanno dato una interpretazione corretta. Noi eravamo a Mirandola e eravamo ad aspettare il presidente del Consiglio dimissionario e questa cosa è successa a Concordia. Ora, il problema è questo, è sicuramente un atto deplorevole, ma bisogna anche tener conto del fatto che sono 8 mesi praticamente che tanta gente qui ha perso la casa, ha perso il lavoro, cioè anche proprio come luogo fisico, a volte ha perso casa e lavoro, ha vissuto per mesi in tenda, adesso magari vive in container, è stata trattata dal governo come, diciamo, una seccatura di carattere amministrativo, no, fino ad oggi. Poi in questo periodo sono venute fuori delle novità dal Parlamento, cioè sia dal Parlamento che dal Senato, e quindi quella che era l'odiosissima copertura fino all'80%, a questo punto sembra sia diventato un qualche cosa di diverso. È chiaro che dopo tutto questo periodo, dopo tutte queste traversie, la gente è comunque esasperata, per cui cioè, diciamo, un certo tipo di azioni individuali possono comunque venire fuori. Ma mi spiega che cosa volete voi sostanzialmente? Le raccomando nel frattempo, se ha un telefono fisso, di stare fermo, perché si sentono dei fastidiosi frusci, probabilmente è il filo stesso del telefono, prego. No, guarda, in realtà è un Bluetooth, però... È strano, insomma, ci sono un po' di scariche, comunque prego. No, vabbè, ma è una zona un po' infelice, tenga conto che la sto chiamando da Cavezzo, che comunque ci ha avuto tutta una serie di problemi e quindi ancora ne risentiamo proprio anche da un punto di vista di infrastrutture. Mi diceva? Quindi, scusi. Sì, no, volevo sentire la vostra posizione, cioè secondo voi che cosa andrebbe fatto? Noi praticamente sono circa 6 mesi che siamo partiti con quello che è uno slogan, ma che in realtà riassume un po' il tutto, no? Cioè vogliamo la ricostruzione al 100%, che sembrava una cosa banale, sembrava una cosa, insomma, come dire, normale fino a prima di questo terremoto. Poi con il fatto che non c'erano le risorse, che c'erano dei problemi, l'assessore Muzzarelli più volte è venuto a dirci che sì, ok, l'80% era il massimo che si voleva fare, e comunque in ogni caso quell'80% con il credito d'imposta sarebbe arrivato al 130%, e quindi insomma ce n'avevamo già abbastanza. Noi in realtà quello che abbiamo richiesto, come stavo dicendo, è appunto la copertura completa. Ora sembra che, almeno come dichiarazione di intenti, la copertura completa dei danni ci possa essere. È chiaro che stiamo parlando non di una certezza, ma di un anche. E chiaramente una copertura anche completa non significa copertura completa. Per cui, da questo punto di vista, noi richiediamo al commissario straordinario e comunque alla Regione di fare chiarezza su questo punto e di dare certezze, anche perché finché non ci saranno certezze, finché la normativa del circa 100 ordinanze che state fatte, un impianto enorme da questo punto di vista, non si adeguerà, e quindi praticamente partiremo ancora dalla logica del fino all'80% il rimborso, è chiaro che la gente avrà dei problemi, delle insicurezze, delle incertezze, e quindi probabilmente farà fatica a partire. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, voglio sentire qualche ascoltatore, iniziando da Franco, che ci chiama dalla provincia di Modena, appunto. Buongiorno Franco. Pronto? Buongiorno, mi stavo telefonando da Rodoreto di Novi di Modena. Sì, dica. Volevo fare i complimenti all'assessore, che parla di bene ed è un burocrate perfetto, cioè, occupa proprio il posto giusto. Franco, recuperi un posto dove prende bene il cellulare. Intanto sentiamo Oscar, che ci chiama da Vienna. Buongiorno. Ho letto bene? Sì, Vienna. Grazie, prego. Abito a Hong Kong, ma vi sento quasi ogni giorno via computer, intervengo perfetto. Stesso. Prego. Molto rapidamente, io ho aperto un'attività a Hong Kong diversi anni fa, e con senno di poi l'avrei fatto molto, ma molto prima. Me ne sono andato dall'Italia disgustato. Ogni volta che ci torno, sono partito stamattina da Milano per Vienna e poi dopo torno a casa. Quello che ho sentito, che mi ha disgustato ancora di più, se non ho capito male, vuole dire che oltre alla complicazione per avere i rimborsi eventuali, aiuti e quant'altro, ai cittadini emiliani, quelli del terremoto, vengono prestati i soldi per pagare le tasse quando nel meridione le tasse sono state sospese. È questo che mi sta... Ho capito bene? Perché se ho capito bene, è follia allo stato puro. Muzzarelli, ha capito bene l'ascoltatore? Ha capito bene. Che il problema è questo, cioè meridione immagino parlasse dell'Aquila, no? Sì, esatto, io sto parlando dell'Aquila perché ho un amico aquilano il quale non ha pagato le tasse, certo, ma non ha più niente. Certo. Adesso mi faccia capire, vuol dire che i tecnici al governo sono delinquenti che fa adesso non esageriamo. Per pagarsi le tasse? Sì, adesso non esageriamo con i delinquenti, quindi Muzzarelli, perché poi c'è anche questo problema, c'è il problema delle tasse che finora non abbiamo affrontato, però resta, no? L'abbiamo affrontato prima soltanto un attimo perché ho raccontato dei 6 miliardi a disposizione, del marchingegno che il governo ha dovuto inventare per tenere in equilibrio i conti, per cui il marchingegno è che lo Stato impresta agli imprenditori gratuitamente delle risorse per far pagare le tasse allo Stato e le farà pagare realmente dal giugno 2013, quindi è una partita di giro inventata per tenere insieme i numeri dello Stato, ma che ovviamente ha creato complicazioni agli imprenditori, quindi ovviamente. Da questo punto di vista è chiaro che la tensione di una parte del mondo imprenditoriale e, come ho detto prima, 3.960 circa imprese hanno fatto domanda per 750 milioni di euro per avere questo anticipo che consente di fare questo giro vizioso per garantirsi la copertura per non pagare le tasse oggi e per pagarle domani. Bulgarelli, Barbara Bulgarelli, su questo. Sì, ma guardi, noi l'abbiamo detto in diverse occasioni, questo è stato per noi un colpo basso, nel senso che imprese che sono che sono state distrutte, che crollate eccetera, hanno comunque dovuto attraverso questo sistema chiedere un anticipo, ma le tasse non sono state sospese, quindi per noi questo è un aspetto estremamente negativo, l'abbiamo dichiarato in mille modi. Io capisco che i conti dovevano e debbono essere in equilibrio, però sinceramente quello che chiedevano gli imprenditori, oltre eventualmente a una sospensione, era anche una dilazione fatta in una maniera molto più semplice, molto lunga, in modo da mantenere un minimo di liquidità nelle imprese. Ecco, questo non ci è stato concesso. Tra l'altro è stato inserito nella legge di stabilità e riconoscimento la possibilità di poter accedere a questo cosiddetto cambialone anche per le imprese che hanno avuto dei danni indiretti, quindi dei danni di tipo economico, ma ad oggi non sappiamo ancora nulla, è stato inserito soltanto una norma nella legge di stabilità, ma mancano i regolamenti attuativi, quindi siamo anche noi in attesa, non sappiamo che direttive dare alle imprese, le quali dicono ma noi cosa dobbiamo fare, dobbiamo pagare, non pagare, eccetera. Quindi è una fase anche questa molto critica e molto difficile. Io spero che al più presto questo governo metta mano a anche questo aspetto, perché è una questione dirimente per le nostre imprese. Chiaramente i famosi danni indiretti, quelli che non hanno subito danni direttamente, ma magari per esempio un'attività commerciale che ha perso il giro d'affari perché magari il gruppo impresa alle quali faceva riferimento o non sono riuscite ad aprire e magari si trova proprio in quella zona, per esempio, uno degli esempi. Vediamo se abbiamo recuperato Franco dalla provincia di Modena, e mi sembrava insomma bello caldo nei confronti dell'assessore. Franco, proviamo. Sì, buongiorno. Prego, adesso si sente, via. Niente, volevo fare complimenti al assessore perché parla di veramente bene, però purtroppo la realtà è molto diversa. A Rovereto di Novi di Modena non abbiamo ancora ricevuto un contributo, la gente, io ho degli amici che sono senza casa, non sanno ancora se la casa è da buttare giù, se avranno il contributo, non sanno assolutamente niente. Mia madre, io parlo di un caso personale, che è una piccola casetta con 30-35 mila euro di danni, il MUDE è talmente complicato e pretende ad esempio l'antisismica oltre il 60%, mia madre 100 mila euro per mettere a posto la casa, non ce li ha, ha 85 anni, nessuna banca glieli dà, noi figli non li abbiamo da dargli ed è una situazione tremenda. Addirittura noi a Rovereto di Novi abbiamo perso la sovranità, perché c'è la chiesa che passa nella strada principale, che ha un muro da buttare giù, la sovranità è passata al Vaticano, non si sa quando lo butteranno giù, non si sa quando lo faranno, cosa costerà, si sa solo una cosa certa, che pagherà l'Italia, e fanno deviare il traffico in mezzo alle case dove passano tir, e le case che non hanno avuto danni con il terremoto adesso ce l'hanno con i tir che passano davanti a casa. Vabbè, questa è la situazione. Al di là della sovranità vaticana, una risposta da Muzzarelli all'ascoltatore. Sì, allora, intanto proprio questa mattina a Novi, visto che Rovereto è in comune di Novi, pur essendo una frazione molto autonoma, ci sono i nostri funzionari che danno risposte a tutti i cittadini, agli ordini, agli imprenditori, e l'ufficio tecnico e il comune di Novi sono a disposizione per verificare le domande e per far presentare le domande. Spero che il radioascoltatore sia in grado di andare subito in comune e col proprio tecnico di presentare la domanda, cercando anche di prendere atto che è successo un terremoto, per cui le condizioni di garanzia antisismiche sono fondamentali per evitare ulteriori problemi, visto che il rischio rimane e quindi dobbiamo essere più sicuri rispetto a prima. Vorrei, se posso anche dire un secondo, una risposta al Comitato Sisma 12, visto che io condivido la strategia che è stata portata avanti, e soprattutto vorrei riconfermare che per noi l'80% è un riferimento insieme al credito d'imposta. Ho sempre detto e riconfermo anche oggi che dopo l'80 più il credito dovevamo fare i conti. Noi abbiamo fatto un po' di conti e abbiamo scoperto positivamente che molte imprese e anche una quota di abitazione avevano l'assicurazione, per cui siccome il contributo è al netto delle assicurazioni, quelle risorse che abbiamo recuperato sul tema delle assicurazioni le utilizziamo per dare il 100% per la ricostruzione delle case. Quindi vorrei riconfermare oggi che per le case la ricostruzione sarà al 100%, sollecito anche di fare le domande, anche se l'ordinanza non è ancora uscita perché stiamo aspettando questa complicazione di relazione con Roma, ma fate la domanda perché il contributo sarà al 100%, questo anche per tranquillizzare, per dire che il lavoro che stiamo facendo va nella direzione auspicata anche dal Comitato. Ancora con Romagnoli, portavoce del Comitato Sisma 12, sì. Mi sembra che però le cose, insomma, seppur lentamente, ci è voluto un po' di tempo, si stiano muovendo complessivamente. Che idea vi state facendo voi dal territorio, Romagnoli? Ma guardi, non posso anch'io che riconfermare più o meno quello che stavo dicendo, cioè sicuramente c'è una, almeno sembra appunto ci sia una, e non vedo perché non dovrebbe esserci peraltro, una volontà di risolvere positivamente la cosa. Ovviamente a oggi, per quello che stava dicendo l'assessore Mozzarelli tra l'altro, l'impianto rimane comunque quello che era preesistente e purtroppo, come dire, carta canta, cioè nel senso, è chiaro che possono essere presentate le pratiche intanto, ma nel momento in cui a un certo punto uno deve ancora fare riferimento a quello che è il minor costo tra il fatturato fatto, praticamente i lavori ammessi, fatturati e fatturati secondo un prezziario regionale che comunque fa acqua e la stessa regione sembra abbia ammesso che fa acqua, e praticamente quello che è il valore parametrato, complesso detto così, ma noi ci dobbiamo fare conti praticamente tutti i giorni, comunque tutte le volte che mettiamo mano a una richiesta da questo punto di vista, e i valori parametrati, in pratica ci ritroviamo a non sapere bene che cosa viene fuori. Allora, da questo punto di vista, quello che chiederemmo comunque in ogni caso, e questo lo può fare la Regione senza aspettare altre cose, è una chiarezza rispetto a questo tipo di discorso. Abbiamo anche chiesto, e diciamo dall'ultima assemblea che abbiamo fatto l'altro giorno, è uscita questa indicazione precisa per quanto ci riguarda, per cui l'abbiamo già richiesto in maniera ufficiosa, lo chiederemo penso oggi, massimo domani, in maniera ufficiale alla Regione. Grazie, grazie Romagnoli, perché siamo in chiusura. Ringrazio tutti quanti, Sandro Romagnoli, Giancarlo Mozzarelli, Barbara Bulgarelli, grazie a Carmelo Lauricella in regia, Franco Piantanida in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione, Rosa Eleonora e Sabrina al centralino. Grazie a tutti voi per l'ascolto. Da Simone Spezia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Radio 24, la passione si sente.